YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, buonasera e bentornati a Radio Tube, la 26esima puntata di Radio Tube, che come sempre è l'appuntamento di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo, anche il perdibile della settimana tra TV, Web TV, Social TV. Questa settimana anche un sacco di musica. Sì, per forza, dobbiamo sostituire la politica per questa cosa che... Cioè, sono in mezzo al trasloco, mi hanno rubato l'iPhone e non posso manco parlare di politica. Dobbiamo parlare di... Ma parliamo di musica, parliamo di televisione. Va bene. Parliamo di presidenti degli Stati Uniti. E non è politica quella. Ma quelli lì non si candidano alle europee. Altissima. Il presidente degli Stati Uniti non ancora, no? Non ancora. Non va ancora. Bene, possono tutti scriverci a @MartaCagnola oppure @DiBellasio. Oppure si può usare l'hashtag cancelletto Radio Tube. Ovviamente se siete su Twitter. Se vogliono vederci. Ci possono vedere. Sai prima che possiamo dare un appuntamento finalmente? Finalmente, per torniamo venirci... fuori dopo Sanremo. Fuori. Per venirci a vedere, non dico per venirci a menare, però potrebbe anche essere, speriamo di no. Un bicchiere. La prossima settimana. Un'ombretta. Domenica prossima siamo in diretta da Vinitaly. Già a Verona. A Verona. E parleremo di politica da lì, perché lì si può. Perché lì col vino di Vinitaly noi probabilmente vediamo se c'è un oasi nella par condicio. Invece, siccome non possiamo parlare di politica, cosa hai messo nel menù di oggi? Noi siamo sempre troppo avanti. Troppo. Social TV, la scorsa settimana abbiamo subito... No, non è che siamo avanti. Marta porta bene. Io lo dico a tutti. Dovete lanciare un disco, un film, una canzone, un libro, un giornale, un qualunque matrimonio, chiamate Marta. Perché io la scorsa settimana, dopo un secondo dall'esibizione di Suor Cristina a The Voice, ho detto, ragazzi, sei come Pippo fermi Baudo, tutti, l'ho inventata io, ho detto inventata. Ragazzi, è arrivata a 34 milioni di visualizzazioni. Milioni! 34 cioè come se metà Italia... In tutto il mondo, metà degli italiani sparsi avessero cliccato su questo video. Ascoltiamo, sentiamo. Valeria, regia, faccene sentire un pezzettino perché... Eccola qua. Parte piano. Eccola qua. Partire. Così lo teniamo un po' in sottofondo. Allora, è un periodo in cui però la Chiesa va forte. Adesso non voglio fare grandi... Chiesa è social per antonomasia. Ecco, allora, non so, qualcuno dice effetto Papa Francesco, non vogliamo spingerci a tanto. Però. Allora, Suor Cristina, 34 milioni di visualizzazioni. La Bibbia su Rete 4, nella sera del... Vabbè, diciamo che la Bibbia ha una tradizione, no? Vabbè, di vendere però questa è una serie, bestseller, però sì, insomma ecco, una serie non TV. Proprio, non ha bisogno di essere lanciata. Una serie TV su Rete 4, nel mondo si ha fatto 100 milioni di telespettatori, però insomma non era stata lanciata sull'ammiraglio, aveva contro su Canale 5 Just di Antonio Ricci, e invece la Bibbia ha fatto... un bel boom col 14,7% di share. Sì, ha doppiato Jazz, che infatti... Vabbè, è la Bibbia, ragazzi. Adesso trasloca come Bellasio. Vabbè, non solo, perché, di Don Matteo è anche inutile parlare, perché Don Matteo... Ah, giusto, ci siamo dimenticati, ma è Don vero, Matteo... Don Matteo... Tra l'altro è socialissimo, voi scrivete le cose, commentate moltissimo. Don Matteo è proprio... E poi adesso è arrivato anche Made in Sud, che va bene, Made in Sud va benissimo. Sì, l'hai detto così perché sai che a me non fanno tanto ridere. No, ma dai, invece sono... Allora, Made in Sud, che ha fatto... l'8,78%, 2.120.000 spettatori, ma se si guarda la campagna ha fatto tipo il 32%, cioè è un fenomeno. Stiamo parlando di share, non è politica, non sono sondaggi, è share, e anche lì si stanno lanciando in un sketch un po' ecclesiastico, non particolarmente, non ci sono volgarità, insomma si può andare in onda, in Rai, in prima serata. Cioè, se ridere sarebbe anche meglio. Io li trovo divertenti, un piccolo frammento dei preti di Made in Sud. Ho una visione, vedo dei santi che bruciano nell'olio bollente. Ma chi sono? Quattro santi in padella. Padre, lei cosa ne pensa della fecondazione assistita? Ah, non sono d'accordo, a me i guardoni non sono mai piaciuti. e della fecondazione in vitro? La fecondazione in vitro non sono d'accordo, a me piace un bicchierino di plastica, è più igienica, è meglio. E cosa mi dice dell'utero in affitto? No ragazzi, oggi non conviene, basta farti un mutuo e te lo compri. Vabbè, sono i ditelo voi. Dai, io l'ho trovato divertente. Non ti sono piaciuti i preti di Made in Sud? Non è che sospendo il giudizio, sento altre opere, però io non ho riso. Beh, non Valeria hanno ancora fatto. Non ha riso. No, Valeria, ma io invece li trovo divertenti. Insomma, Made in Sud è andato bene, Don Matteo è andato bene, Suor Cristina 34 milioni di visualizzazioni, è il momento della... Ecco, ma Suor Cristina come te lo spieghi? Perché è suora, perché canta bene, perché poi è molto scenica anche. È, cioè, molto balla... scenica, è molto scenica perché il meccanismo di The Voice... aiuta il meccanismo di The Voice con le famose, ormai lo abbiamo già spiegato alla radio, sì, blind auditions, cioè le audizioni cieche che uno schiaccia il pulsante e se decide di scegliere un cantante lo vede solo dopo, quindi lo stupore di vedere Suor Cristina, anche quello ha fatto il suo e poi vabbè gli endorsement, come si dice adesso, subito di Whoopi Goldberg, poi della stessa Alicia Keys, beccato subito, sempre. Vabbè. Poi della stessa Alicia Keys, cioè la cantante che ha portato al successo No One, hanno fatto il resto. Poi è un personaggio divertente, vedremo cosa succederà, anche perché anche questa settimana The Voice sarà stata inseguitissima dalla stampa, dalla televisione. Le hanno fatto le poste davanti alla sua chiesa. Questa settimana un altro topic su Twitter, un altro argomento in classifica su Twitter è stata l'esclusione della cantante dei Jalis a The Voice. Anche i Jalis hanno ritrovato un po' di notorietà, anche se Alessandra purtroppo non ce l'ha bisogno. Fatta. Cattivo, sempre no, cattivo. Il trasloco mi mette in cattivo umore. Allora, facciamo che tra poco parliamo di... Politica! No. Cucina, va bene cucina? Cucina e politica, mi piace questa, lanciamo una trasmissione di cucina e politica. Vabbè, vediamo tra poco. Radio Tube. Dopo il traffico mi sento molto ispirata perché vabbè, abbiamo parlato di Suor Cristina, ma secondo me parleremo di Suor Cristina, sarà un tormentone Suor Cristina, non lo so, non ce ne libereremo mai, 34 milioni, chissà quanto saremo la prossima settimana. Comunque, esatto. Mi hai parlato di Suor Cristina, Don Matteo, i preti di Made in Sud, abbiamo parlato, adesso cambiamo argomento, dai. Cambiamo, perché c'è una cosa che in televisione, sui social va... forte almeno quanto i temi di cui abbiamo parlato finora, quelli ebbene spirituali. Ebbene sì, ma non parliamo solo di quella lì, parliamo anche di quella là, musica. Caro Daniele, io ho tre passioni. Allora, la musica, sì, la politica, mangiare bene, sì, che è quella un po' me la nego, anche i begli uomini, ma così, solo in teoria. Ma i begli uomini ne parli poco, però, di solito. Ne parlo sempre poco. E anche però... di cucina abbiamo parlato poco finora. Rimediamo con i piaceri della cucina e della musica. Insieme, anche con un bell'uomo. È una star. Vabbè. Metti alla prova il mio emozionometro interiore. Sarà una puntata molto molto intensa. Buonasera ad Alessandro Borghese. Buonasera a voi, grazie di avermi invitato. Vabbè, non potevamo non invitarti perché appunto cucina, musica, rete, sei televisione, sei l'ospite perfetto. Noi ti abbiamo colto così come un mazzolino di fiori. Intanto per l'uscita di questa compilation che io ce l'ho in mano, beh, una roba straordinaria. Che dici? Ma mi piace un sacco Kitchen Shuffle, tu sei lì che cucini, ma non spadelli dei piatti, ma spadelli dei dischi in vinile. E poi finalmente non parliamo più del piatto abbinato alla canzone. Assolutamente no. No. Questa è una... è un racconto, sono storie di cucina in musica, quindi è la musica... il potere evocativo della musica per raccontare. Quindi la musica, come il cibo, ci porta indietro, ci porta anche avanti nei nostri pensieri. C'è sempre un brano musicale o un piatto che porta indietro la memoria, sia gustativa che olfattiva, ti ricorda sempre qualche cosa di particolare. Kitchen Shuffle vuole essere questo, è nato nella mia cucina, mentre si lavora, io mi occupo di catering, banqueting, eventi, e da lì poi l'abbiamo spostato su il mio portale, sul mio sito, che con i social e la mia community ci scambiamo musica, opinioni, band nuove, e questo progetto è cresciuto ed è diventato fisico. Si è trasformato in dal questo virtuale dal al reale. Virtuale al fisico, esattamente, perché in effetti non c'è vita senza ritmo e senza cibo, secondo me. Quindi si spazia nei periodi storici, però rock. Cioè, io sono rock. Io sono okay. Molto rock. Da qualcosa si intuiva. Diciamo. Però sono un amante anche del blues, del jazz, della classica. Beh, certo, sono quindi parenti. C'è un po' di tutto. Cioè, si va da Marvin Gaye, quindi... grande, beh, insomma, lì Bob proprio Dylan, Johnny Cash, Europe, e questa a cosa Europe, a Run DMC, c'è anche un po' di rap. Cosa c'è di Europe? Beh, Europe, c'è no, pensavo una roba romantica, Carrie, te lo ricordi? Sì, erano i primi balli lenti, pensavo i primi baci anch'io, vero? Dipende dall'età. Ma perché shuffle? Tutto shuffle. Shuffle perché la vita è shuffle, perché comunque non sai mai cosa arriva dopo, quindi per questo non è un brano abbinato a un piatto, ma è la musica per raccontare. E raccontare la cucina e la mia vita in musica, quindi diciamo che ogni brano, sì, se vuoi puoi abbinarlo a un piatto, ma in effetti è quello che ti capita, no? Quella giornata là, quando metti in shuffle, come quando eri ragazzo e facevi le musicassette, sì. Sempre al tempo dei primi baci, sempre al tempo di Carrie, esatto. di Europe. E quella era, diciamo, l'origine dello shuffle. Oggi, con i mezzi che abbiamo a disposizione, è bello non sapere, sai, che cosa arriva dopo, un po' come andare al ristorante e far fare allo chef. Questa è una cosa che è bello, no? Quando hai fiducia, vai al ristorante e dici no, non alla carta, faccia fare allo chef. E lo faccio anche col parrucchiere. E quindi non sai però. che cosa ecco, sì, sono fatto col parrucchiere. Anche questo. Ma tu quando ascoltavi e facevi le cassettine Rekepè già cucinavi? E quando facevo le cassettine, ma incominciavo a muovere i primi passi con i primi sughi, i primi ragù. Ma li regalavi? Regalavi a una fidanzata, per esempio? Regalavo, invitavo. No? Altro che le farfalle, c'era la collezione di farfalle. No, perché lui sta facendo il trasloco e non avrà la cucina per non so quanto tempo. Non lo so, faccio un appello, sì. Se qualcuno vuole prestarmelo o se vuoi venire. Posso propormi. Però la cosa bella è che, pur essendo un personaggio televisivo importantissimo, per raccontarci il progetto non è partito dalla TV, ma dai social network. Perché lui ha un Tu mi hai detto pazzesco? Social chef, il primo social chef. Lui ha un Italia. Sito pazzesco che io sempre per curiosità guardo i siti personali. I paragoni. Beh, qui proprio un altro pianeta, cioè vero, cioè vero con una vera interazione, con dei contenuti veri, aggiornati. Ci lavoro tanto, da tanti anni, mi piace essere connesso con il mondo, connesso con gli amici, con le realtà che ci sono, per anche il mio lavoro, per studiare, per sentire qual è l'opinione generale sul mondo gastronomico, ma anche sulle cose mie personali, quindi sì. E poi crei gli hashtag? Importanti. Sì, certo, hashtag Twitter, adesso con Junior Masterchef Italia abbiamo un grande affare con i social network, perché con i ragazzi che sono ipertecnologici, quindi che guardano il giornale e cercano di aprire la pagina con le dita, ma non funziona. La nuova generazione è tecnologicissima, quindi è giusto che ci sia un'interazione anche da chi fa cucina, per avvicinarli al mondo della cucina nella loro chiave di lettura. Il mio hashtag, quello che uso sempre quando guardo Junior Masterchef facendo come sempre social TV, è paura, perché mi fanno veramente paura questi manifesti. Beh, è bello pazzeschi. Che loro iniziano a conoscere la materia prima, conoscere la ricchezza dell'Italia, che la cucina è un nostro bene, come l'arte, come l'architettura, e bisogna iniziare da piccoli. Quindi non è strano che la domenica si fa la pasta fatta in casa, che si fa un dolce fatto in casa, che si conosce le stagioni, la materia prima, perché è cultura. I ragazzi giocano con tantissime app. Io, che insomma non sono proprio ragazzina, ad esempio mi diverto tantissimo a fotografare le cose con InstaFood, per così mi segno anche, mi taggo anche dove ho mangiato. No, però spieghiamo, è un Instagram solo di cibo? Sì, cioè praticamente è un'applicazione che ti permette di taggare gli il ingredienti. Posto in cui stai mangiando, cioè lo stai geolocalizzando, fai delle foto anche carine del cibo che stai mangiando e poi ovviamente arrivano come gli tutte amici. Poi lo posti su Instagram o dove vuoi, insomma un sacco di tempo da perdere. Cosa pensi di questa applicazione di cucina? Bello, e poi ti chiedo anche del fatto che tu stesso sei diventato... Lo scambi con un collega, che sono opinioni, vai a vedere quel posto come... Certo, adesso ci sta una differenza tra il decidere di andare a mangiare in un posto per il semplice gusto di mangiare bene e non dover andare in un posto perché c'è bisogno di andare a fare i giudici, fotografare, giudicare in qualsiasi posto uno va. Vabbè, come nei concerti che ormai uno va ormai mai e prende. Solo per fare il senso. Esatto, invece no, ci vuole proprio il senso di avere il gusto di andare a tavola, mangiare, godersi il pranzo, godersi la cena. E poi se c'è qualche cosina che non va, per carità, non per forza bisogna subito mandare il messaggio, subito. Ma... Però no, io sono d'accordo. Come servizio divertente con gli amici, io lo trovo divertente. Esatto, come servizio divertente è bello, sì. Però ecco, vedo tante persone che adesso vanno al ristorante, cioè, tutti con cellulari, e tutti i giudici. Guarda un po' qua. Questa fogliolina nel vabbè, piatto. Tutti i giudici, no, perché appunto ormai se non sei... Cioè, no, anche perché prima tu... si metteva il cibo in tavola, adesso si impiatta. Esatto, bisogna impiattare, certo, sì. Perché cosa fa? C'è la famosa parola nuova, l'impiattare, che abbiamo sdoganato da MasterChef. Certo. Cucinano fin da piccoli, ma magari cominciare anche a fare scoprire loro il rock sano, che questo... Certo, ma ti dirò che ce ne sono due o tre che sono molto molto ferrati, anche ma tipo, qual è la canzone più MasterChef Junior? Beh, forse direi Hey Yeah, degli Outkast. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. Invece per la nostra generazione bambini, vabbè, Ghostbusters. Beh, cioè, quello è nostro. Ray Parker Jr. Quello è nostro. Yeah. Adesso sei diventato anche un'app, o meglio, sei entrato come primo così, chef. Cioè. No, dai, adesso, diciamola bene, sei il primo chef vero. Editore di... Cioè. Come si può dire? Contenuto e fabbricatore di contenuti in un'app importante. Verrò installato in tutti i nuovi Windows 8 del mondo. Come la mia cucina che deve essere installata. Beh, è una cosa... Cioè, poi in tutto il mondo. In tutto il mondo, sì. Molto bella, molto bella. Rappresenterò l'Italia per Microsoft, gastronomicamente parlando, in tutto il mondo nella sua app. Alessandro, ma tu quando ci sono... Cioè, c'è la TV in TV, fai un po' di social TV, noi ci divertiamo molto. Quando c'è la TV in TV, nel senso che, per esempio, qui non ci sta Junior MasterChef, noi... ci mettiamo lì e lavoriamo su Twitter, Facebook, mi piace interagire durante la puntata con coloro che guardano per sentire i commenti, magari i suggerimenti su come cosa cambierà, che cosa farà quel ragazzo, cosa andrà a cucinare, e devo dire che c'è uno scambio divertentissimo, specialmente perché i bambini fanno ridere pure, no? Cioè hanno quell'innocenza che si applica perfettamente al mondo dei social network per poter anche sdrammatizzare, divertirsi un pochetto. Quindi televisione, libri, cucina, una tua azienda, perché dobbiamo dirlo. Io sì, ho un'azienda che si occupa di catering, banqueting da tanti anni, cioè quello è il mio core business. Io, a parte la cucina, in televisione o comunque, ecco, questi progetti speciali che dove metto tanto tanto impegno, io il 90% della mia vita la passo in cucina, per banchetti, per eventi, per consulenze per aziende gastronomiche, matrimoni, quindi faccio team building aziendali, motivazionali, quindi faccio parecchie cose. È bello perché dimostri un po' di distacco nei confronti della TV, o sbaglio? Come no, la TV fosse... è un mezzo eccezionale per comunicare, specialmente quella di oggi che, come dicevi prima, è anche questa molto tecnologica, no? È abbinata al social adesso, quindi non c'è programma che non abbia il suo hashtag, non c'è programma che non abbia la sua pagina Facebook o il suo sito ufficiale, e questo ti permette di interagire in più maniere. Poi però io sono un cuoco, e quindi... Beh, questo è bello. Torno nella mia cucina e devo dire che lì... C'è la televisione nella tua cucina? No, nella televisione gravissimo. C'è però un MP3 dove si va in kitchen shuffle. In shuffle. Così si fa, mai cucinare senza musica. No, dicevo, televisione, libri, manca solo la radio. Manca quindi la radio, ti vogliamo, sì, la radio. Vabbè, vuoi okay. prendere il mio posto, per esempio? Ah, non ci provare. No. So che vuoi andare in ferie, esatto. Però... Ma io non glielo consento. Finisco il trasloco. Alessandro, davvero grazie per Ma essere grazie stato a voi, con noi. È stato un piacere. Io tra poco torno a casa, mi metto a cucinare, quindi mi inviti perché io sento la cucina. Viene anche cucino, Alessandro. Io mi metto in sottofondo kitchen shuffle, quindi non garantisco sulla cucina, ma garantisco sulla musica. Vai Brava, così. Come sempre. Grazie Alessandro. Bene, grazie a, presto. A voi, un bacione. Radio Tube. Una settimana ricchissima di ospiti, quella del nostro Radio Tube di questo fine settimana, il nostro programma di Radio 24 che vi fa riascoltare il meglio, il peggio della TV, della social TV, anche della musica, perché Alessandro Borghese è un protagonista di tutto questo. Poi Alessandro Borghese ha fatto veramente il pienone di ascolti questa settimana con Junior Masterchef. Sì, mentre Marta porta bene. Ai primati di Marta. Basta, io voglio solo numeri uno d'ora in poi. E infatti ci non sono solo qua il numero io, uno dei co-conduttori, ma perché lo facciamo insieme. Non solo il numero uno della conduzione, ma anche il numero uno delle classifiche di vendita di questa settimana, che è uno e uno solo. Ma perché? Questo secondo me è un tuo corso nei miei confronti, un tuo corso per la sopportazione delle emozioni forti. Delle emozioni forti, lo so, perché questa non è male. È un tuo corso, anche perché stavolta è in studio, posso fare una foto dopo puoi fare un selfie, anche perché tu pensavi di essere quello con gli occhi azzurri più belli di tutta Radio TV. A parte che i miei sono grigi, quelli sono azzurri. Qui abbiamo davvero veramente Blue Eyes della canzone italiana. Esce con un album di inediti a 20 anni dal precedente, a 30 anni da quello ancora prima. E uno dirà, ma cosa ha fatto nel frattempo se ha fatto 3 album da solista di inediti in tutti questi anni? Nel frattempo aveva fatto il Pooh. Buonasera Roby Facchinetti. Ciao a tutti. E poi con una presentazione così io mi sento quasi, come dire, a disagio. No, allora, queste qui, belle cose, ragazzi, cioè, abbiamo ma che vita la sua, ma che vita la mia, tantissima vita, un po' in salita, un po' in discesa, però insomma tanta. Un album che è un manifesto, perché è un album che fa un bilancio del fino a qui e un manifesto di tutti i sogni che ci sono ancora da realizzare. Non è poco, Beh, insomma, sognare aiuta, no? Aiuta a vivere meglio, guai. Senza sogni credo che non si potrebbe neanche vivere. I sogni ci aiutano a vivere la nostra vita sicuramente meglio. Io avevo da un po' di tempo questa esigenza, insomma, di raccontarmi musicalmente, così un po' in tutte quelle che sono le mie sfaccettature musicali. Così è stato, con Valerio Negrini ci siamo messi a lavorare, e lui sui testi, io sulle musiche, lavorando proprio su un discorso molto più cantautorale. Ci siamo messi a lavorare per circa un anno, con un po' di interruzioni, e il 24 dicembre lui mi consegnò, neanche farlo apposta, le ultime correzioni di un testo, e poi mi disse: adesso andiamo in vacanza, e dopo le vacanze ci rivediamo, insomma, per rivedere tutto da capo, per capire se ci sono o no delle correzioni da fare, qualcosa da migliorare. Ma purtroppo lui se n'è andato. Io mi sono trovato con questo testamento vero e proprio di Valerio, e devo dire che non è stato facile, perché è stato un colpo molto duro. E adesso è uscito da pochi giorni questo lavoro, adesso non è più mio, è diventato del nostro pubblico, di chi insomma ci segue, soprattutto di chi ci segue da tantissimi anni, alcuni da sempre, alcuni invece magari da qualche anno o addirittura da qualche mese. E sto girando come una trottola in questi giorni per fare la promozione da Roma a Torino, a Verona, a Bergamo, Milano e altre città, proprio per incontrare anche questo nostro pubblico straordinario che sta prendendo questo mio lavoro, che poi, insomma, anche il lavoro anche di Valerio, in un modo direi molto bello. Credo di poter dire come io avevo immaginato, e credo come avrebbe voluto anche Valerio che arrivasse questo mio lavoro. Tra l'altro, Daniele, vabbè, a parte non siamo riusciti discorso... a fare nessuna domanda, no, perché appunto siamo... le emozioni forti che ma ti dicevo poi prima. Pensa che quando noi pensiamo all'amicizia, noi che ci occupiamo tanto di social network, come no, do l'amicizia su Facebook. Sì, è una cosa più complicata. La durata, no? È la forma di tutte le cose. I tuoi fan, i fan dei Pooh, sono praticamente degli adepti di una setta alla quale io sono... Sono io li chiamo, alcuni sono radicalisti, fondamentalisti, puici. Ecco. Adesso con i social network, tu hai una pagina di Facebook, sì, vero? Com'è il rapporto con loro? Perché guarda, è straordinario. Ti dico l'ultima, no? Su tutto il territorio, fortunatamente, questa è una cosa molto bella, in alcuni negozi hanno finito il CD, me l'hanno segnalato e abbiamo poi raccolto tutte queste segnalazioni che sono state preziosissime. Devo dire che un aspetto di questi di Facebook, di questi social network, straordinari, e ci sono tutta una serie di critiche, fortunatamente molto belle. Mi piace perché è un bel confronto, si capisce, capisci meglio perché magari quella cosa arriva un po' di più, quel brano, rispetto a un altro, quali sono le vere ragioni, no? Del perché di certi brani, di una certa musica, di un certo testo in questo momento. I Pooh sono sempre stati pionieri in tutto, cioè qualsiasi innovazione la musica abbia visto in appunto quasi 50 anni è stata portata avanti dai Pooh. I tour straordinari, mm-hmm, alcune invenzioni, i mega concerti, tutto iniziato dai Pooh. Addirittura mi ha confessato Roby Facchinetti poco fa che loro sono stati anche i primi ad avere un sito talmente pazzesco da essere stato premiato addirittura da Sole 24 Ore. Sole 24 Ore, parliamo del 98. Ammazza. Hai 1900, visto? Per cui adesso non so quanti anni fa, comunque parecchio tempo fa. La Cagnola non c'eravamo. Ed erano, io non c'ero. Non si c'ero incominciava, ancora, no? Si incominciava, insomma, questa ipotesi del sito, no? Mm-hmm. Che io credo, insomma, tu dicevi i primi, siamo stati anche quelli che hanno sempre amato, che hanno capito che la musica, per carità, è sempre comunque la cosa più importante. Però forse abbiamo capito di primi, per primo in Italia, che non bastava più salire sul palco, certo, con due amplificatori e quattro microfoni. La prima volta che siamo andati in America, che abbiamo visto i primi musical, siamo tornati in Italia e la prima macchina da fumo l'abbiamo costruita noi col nostro fabbro, utilizzando delle serpentine del ferro da stiro con dell'olio di rasella che faceva dei disastri incredibili, perché oltre al fumo usciva pure l'olio arroventato, per cui ci bucava i pantaloni, insomma, per dire, di lanciafiamme. Ci sono ancora dei teatri in Italia e ci sono tutt'oggi dei soffitti che hanno delle macchie nere dovute proprio al nostro lanciafiamme, no? Partiva queste fiammate incredibili. E insomma, eravamo anche un po' incoscienti. Questo per fargli capire che la ricerca, il discorso certo, di prima, l'innovazione la sempre ricerca, un po' incosciente. E in un gruppo si sente di più questa esigenza rispetto a... Ecco, ma io posso fare la classica domanda un po' così stupidina. Da solo anche in tour, no? Sì, infatti... E quindi questa solitudine, che per altri versi è anche aggravata da quello che hai raccontato, sì, prima, come, che cosa ti provoca? Come l'affronti? Sai, il discorso di salire sul palco, io salirò sul palco con altri sei musicisti straordinari, incredibili. Certo, dopo una vita che sul palco ho, adesso c'era anche Stefano fino a 3 anni fa, adesso non c'è più Stefano, però diciamo che io mi giro a sinistra ho Dodi, a destra ho Red. Chiaramente anche in sala di incisione, istintivamente. Senti, allora scusa. Ah no, aspetta, no, scusa, non c'è nessuno. Allora devo deciderlo io. No, perché è normale che nascano delle cose, che sono degli automatismi talmente assimilati che non ci pensi, no? Come ad esempio anche con Valerio Negrini. Io... noi ci sentivamo ad esempio la mattina presto, molte volte, quindi in macchina. Per me è un'occasione anche per sbrigare un po' di telefonate, certo, la mattina presto. Io istintivamente mi accade ogni tanto di fare il numero di Valerio, perché perché è una delle cose che io facevo sempre e da sempre ha fatto parte della mia vita, per cui cancellarle da un giorno all'altro quasi, insomma, non è assolutamente facile. Poi hai anche una famiglia straordinaria che ti supporta. Allora, io ho visto questa foto che io adesso mostro alla radio, troppo bella, si vede, l'ho vista, si vede anche tweetata, alla radio. Si vede anche alla radio, l'ho vista twittata da Valentina, che è tua figlia, molto, molto simpatica, molto carina. Tutti con il tifosi. CD, tutti tifosi, sì, addirittura con l'hashtag oltre che ma che vita la mia, ma che famiglia la mia, proprio carini. Ma poi la cosa bella è che il primo, perché queste cose qui vedi anche la fotografia, che è la fotografia insomma particolare, c'è questa idea del copertina, occhi, copertina, l'ha fatta Franci. Francesco, capito queste cose. Allora, gli altri, chiaramente gelosissimi, pur io, perché sì, io l'ho pubblicato sul mio Facebook, la fotografia di Franci, poi l'hanno voluto tutti, e allora a quel punto per par condicio ho dovuto per forza, poi stare molto attenti anche alle dimensioni, certo. Sono perfette, sì, infatti uguali, c'era uguali, sì, sì, sì, ma al miliardesimo di millimetro, attenzione. Ma potremmo lanciarlo tra i fan, che tutti i fan fanno questa foto. È vero, dobbiamo fare la foto. Bello. Sì. Allora, abbiamo detto 50 anni dei Pooh. Un tempo si diceva che si aspettava sempre la sorpresa più grande possibile. Ma in 2 anni cosa potete immaginarvi? Cioè io immagino che, cioè dopo di voi poi il diluvio, ma non ho idea. No, ti posso dire solo questo, perché ci stiamo lavorando, stiamo pensando, ci sono già delle idee, altre idee sono state scartate in virtù di altre idee, insomma succederà di tutto. Vorrei però essere una zanzara in una riunione Guarda, ti posso dire questo, che giustamente su quel palco nel 2016 succederà di tutto. Quando dico tutto, capito? È tutto. Ma anche quella cosa lì succederà. Tutto. Lo so, succederà tutto. Roby, intanto però, ma che vita la mia, ce lo godiamo, ce lo ascoltiamo fino a consumare l'MP3. Ma qualcuno dei Pooh l'ha sentito in anticipo il disco? Allora, ieri ho dato a Red il CD. Adesso ci sarà una riunione puica, ti sottoponi puica, al giudizio puica, e lo darò anche a Dodi, e poi lo farò avere anche a Stefano, farà 3-4 giorni. Ho davanti ancora vita, anzi spero di più, ma ne ho già da raccontarti. Non è stata una vacanza e nemmeno galera, né rimpianti né rimorsi. Ho anche avuto più cuori, ma ho messo al mondo figli migliori di me. Quanto di me c'è in loro, la vita lo dirà. E nei sogni e nei guai, che sia quello che sia, mai mi scordo un amico. Grazie per essere Grazie stato con voi. Noi. Grazie. Daniele non si è ancora ripreso. C'è ancora. No, perché infatti io di solito sono molto più spigliato, però poi quando sono intimidito, quelli con gli occhi azzurri sono sempre un po' timidi. No, perché hanno l'anima gentile e anche leggera. Perché la nostra anima vola come la voce. Con un po' di invidia. Grazie a Roby per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie veramente. YouTube. Come passa velocemente il tempo quando ci si diverte, soprattutto quando si fa RadioTube e soprattutto quando lo si fa con questi ospitoni. Sì, ma allora, siccome di politica io voglio parlare comunque. Perché quest'uomo mi ha inquieto, perché vuole parlare di politica. Ma la par condicio, cioè almeno delle auto blu in vendita su eBay, no? Non c'è una par condicio tra i siti di vendita, non lo so. Perché quello è un social network, noi ci occupiamo di rete, social network, le cose, tu vuoi venderla tua, hai detto, stanno vendendo queste macchine di tutti i ministeri. No, io non pensavo di venderla mia, però mi hai detto che ci sono dei macchinoni, sta andando bene? Ma no, sta andando bene, pare che offrano, cioè sì. Funziona. Non ripianeremo il debito pubblico con le auto blu, come è stato detto questa settimana, però insomma, Adesso andrò a controllare. No, no, ma magari quindi, resto con la mia macchinetta. Quindi allora, lì a incontrare il presidente c'è andato in bici perché aveva venduto l'auto blu su eBay. Matteo è andato a incontrare Matteo si Barack. Può parlare. Sì. Allora Barack è andato a incontrare Barack Obama e che ha incontrato anche Sua Santità, soprattutto della Repubblica, che non ha incontrato Totti. No, è no, una bufala. È una... No, ma sai che è ancora stato più bello? Perché è stata l'ambasciata americana, chiocciola ambasciata USA. No, dai, ti prego, no. Dai anche l'account Twitter di, della... Sì, ma sono fantastici. No, no, beh, non lo metti in dubbio, sono americani. Video, hanno fatto il video con la sagoma di Obama in giro per... Coi selfie. Per Roma, facendo le finte immagini della visita di Obama, prima della visita di Obama, anche l'immagine con Totti. Io questa cosa l'ho trovata geniale. Sì, sì, sì, assolutamente. Quasi geniale come il argomenti. Tweet. Hai tolto gli argomenti. No, più geniale ancora il tweet il di tweet. Flavia Vento. Vabbè, ma qua proprio una puntatona, non pensavo. Beh, tu l'hai letto. Come dice Cruciani, siamo al top, dimmi. Beh, Flavia Vento che aveva annunciato su Twitter l'arrivo del presidente Kennedy, perché lei è, io lo dico sempre, una categoria dello spirito superiore. Il cecchino è stato uno dei protagonisti dell'ironia su Obama, perché non c'era tanto da scherzare su Barack Obama, perché non è che ci si possa proprio tanto, cioè lui è un personaggio su cui non è facile fare... Beh, insomma, in America lo fanno, abbastanza. Beh, ma insomma, su questa visita, no, però la visita no, Gazebo serio, ha comunque... Grisi. Sì, beh, Gazebo è riuscito però a fare... Il tuo amico Diego Bianchi. L'adorato Diego Bianchi è riuscito a prendere in giro, a prendersi in giro, e con Andrea Salerno cos'ha combinato? Hanno deciso di fare una seria inchiesta durante Gazebo per scoprire se il cecchino era un vero cecchino. Sì, sì, ma attenzione a scherzare. Sentiamoli. Ed ecco Semprini di Sky e di Giovan Paolo di Rai News. In stretta competizione, due canali All News a un metro di distanza. Con Paolo Francesco, che il Rai News 24 segue tutto in diretta. Loro erano disperati, no? E si litigavano, vedete, come più o meno gli operatori che riprendono tutti il cecchino di sopra. Su c'è il cecchino. Adesso proviamo. Facciamo una prova. Io scatto velocemente verso il Quirinale. Veloce. Prendo il cecchino, se mi ammazza funziona. No? Funziona, vai. Dai, solo Gazebo. Le grandi inchieste giornalistiche di Gazebo. Metti che funziona. Come fa un SC? Metti che non funziona? Metti che no. Allora metti corro davanti al cecchino. Secondo me, io mi sono divertita tanto di fronte a questa. Vabbè, un pochino abbiamo scherzato sull'inglese di Renzi, che comunque è un buon inglese, dai. Vabbè, perché certo. È un po' no, così. No, l'inglese è stato... tipico dei ragazzi della nostra generazione. Dai, sì, lo parla, secondo me, ma è sì, finalmente poi dopo, le lingue sono anche qualcosa che tu devi usare, sono uno strumento, quindi anche se tu non parli come Shakespeare, però lo sai usare in maniera spigliata, poi saltava di qui, di là. Devo ma dirti che arrivare, in redazione abbiamo un po' sorriso. Esatto, perché secondo me è stato il momento più così poetico. È riuscito friendly, più... Sì, è riuscito a fare una traduzione un po' particolare lui stesso. Possiamo mandare me... in onda questo? No, proviamo, perché in inglese, secondo me, non violiamo la barcondice perché in inglese. Proviamoci, e sono ecco fuori dall'euro. Questo inglese di Matteo Renzi. Da questo punto di vista confermo gli impegni che il nostro paese ha assunto con i partner europei e con gli Stati Uniti, in particolar modo nell'area del Mediterraneo. Il Mediterraneo è per noi il posto, il luogo che i romani chiamavano Mare Nostrum, our sea. Non credo che la traduzione sia la traduzione più adatta al Mare Nostrum latino, ma credo, e questo è molto importante, che sia nostro il dolore di quelle giovani donne che hanno dato il via alla primavera araba e che oggi hanno bisogno che la comunità internazionale non si giri indietro. Vabbè, un pochino... Allora, l'inglese, secondo me... il latino e il fiorentino. Secondo me qualcuno si è messo a ridere quando lui ha detto our sea, allora l'ha spiegata. Però dai, è carina, our sea. Sì, sì, sì, sì, no, ma credo anche Obama ha riso, perché non è stato... a fasi sorridenti. Poi c'è stata quella bellissima scena, ma uno spot per l'Italia straordinario, la passeggiata bella, con bella. Mezza Italia che voleva essere la professoressa che spiegava a Obama il Colosseo. Chissà che responsabilità, dice. Che sì, ansia, sì, che sì, brava. Sì. Beh, chissà insomma, che domande. Sì, però bella quella passeggiata, molto bella. Sai chi ha dato dei consigli a Obama? Chi? Si fa consigliare da qualcuno, il Presidente degli Stati da Uniti? Da Pinuccio. Pinuccio! Quante Pinuccio volte? Mancava uno Pinuccio. Dei re di YouTube, Vir Alessio Giannone, uno dei re dei video Pinuccio. Più condivisi su YouTube, il nostro Pinuccio, che ha dato dei consigli a Barack Obama per il suo rientro. Per tornare. Per il suo rientro dagli Stati Uniti. Eccolo qua, sentiamolo. Pinuccio. Obama, Pinuccio, IEM. Se ritorno una tipa bionda con un trolley rosa ti chiede un passaggio, tu di che non c'è posto, di che c'hai le valigie, che c'hai la pasta al forno che ti ha dato mia suocera, ma non le dare il passaggio, mi raccomando. Sabino, vuoi dire qualcosa a Barack? Compra un cappotto a Renzi. Eh sì, compratelo, anche perché non si può presentare così. Noi in Italia non ci vestiamo tutti così, Many things. Many things è tornato dalla prima puntata. Many things. È giusto, perché era in inglese. Many things di Pinuccio è straordinario. Io, prima di chiudere questa puntata di Radio Tube, visto che abbiamo parlato di Vir Alessio Giannone, perché questo è il suo account di YouTube, cioè di Pinuccio, che a me piace tanto, many things, vorrei segnalare anche il ritorno di un'altra star di YouTube che a me piace molto, che è Francesco Sole. Sì, ne abbiamo parlato. E possiamo anche tornare a parlare, perché allora, siccome tu hai avuto un furto questa settimana, che peccato. No, sì, che peccato, fai fare dell'ironia sulle sofferenze. Non voglio fare dell'ironia, sai, in metropolitana, uno smartphone. Allora, quanto è legata la nostra vita agli smartphone? Tantissimo. Francesco Sole, questa settimana, il super amato dai ragazzi Francesco Sole, ha postato un video già molto molto visitato su YouTube, che racconta proprio la sua vita con l'iPhone. Prima di andare a letto attacco il cellulare a carica batteria, punto la sveglia una decina di volte, scrivo un paio di buonanotte e mi addormento. La mattina mi sveglio con una suoneria di merda che rinvio un paio di volte prima di alzarmi dal letto. Poi mi alzo dal letto, apro Facebook e vedo che non ci sono notifiche. Apro WhatsApp, niente notifiche. Così faccio colazione. Poi mi vesto ed esco di casa. E in questo momento della giornata la batteria del mio iPhone è al 100%, ovvero serenità interiore. I 24 secondi più belli della giornata. Poi prendo l'autobus. E in genere quando sono in autobus inizio a guardare l'orologio pensando che sono in ritardo. Così mi preoccupo, facendomi salire l'ansia. Poi tiro fuori un libro dalla borsa e inizio a pensare che forse non ho studiato abbastanza per l'esame. O forse che la mia vita fa schifo. Allora decido di ascoltare una canzone, srotolare le cuffiette e farmi entrare un po' di musica in testa. Mando un messaggio alla mia migliore amica e vedo che la batteria del cellulare è all'87%. Ovvero, perplessità, sono passati solo 12 minuti dal 100%. Batteria al 100%, perplessità. Serenità interiore, batteria all'87%, perplessità. E devo dire che effettivamente io la carica della batteria la controllo spesso. Ci sono fasi della propria esistenza in cui, quando la batteria sta perché, che quindi dopo la scusa te la fornisce il mezzo, ormai si è scaricata la batteria. Sei contento? Perché non è sempre perplessità alla fine della batteria, a volte è liberazione. Un po' di liberazione, filosofia dello smartphone. Ci sono dei giorni, sì. O del trasloco, vedi tu. Ah, vabbè, allora... Abbiamo come finito passa il tempo? Come è passato il tempo? Hai lanciato due o tre LP, dischi, canzoni, libri. E poi vorrei ricordare che i nostri account di Twitter sono sempre @MartaCagnola, @DiBellasio, con un hashtag RadioTube se volete segnalarci delle cose. Soprattutto di politica. Par condicio, aiuto. Poi il nostro podcast è sempre lì, quindi scaricate sempre il nostro podcast. Poi, per caso, domenica prossima siete a Verona, noi saremo lì a Vinitaly. Non garantiamo di essere sobri. No, anzi, credo che da contratto ci sia che... Ah, dobbiamo! Beh, secondo me, per onorare la manifestazione... Perfetto, vabbè, alle tre del pomeriggio. Abbiamo... Va bene, io saluto Flavia Vento e Valeria in regia. Bravo, saluti Valeria Regia, che saluto anch'io. Io saluto invece i nostri straordinari ospiti, che sono stati Alessandro Borghese e Roby Facchinetti. E noi ci risentiamo il prossimo weekend, sempre con RadioTube. Ciao.